Voglio chiedere una cosa al maestro Franco Ordine. A me è piaciuto tantissimo Dani Alves. Sembra che giochi... Ma abbiamo scoperto la mia! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Oggi è uno di quei giorni che vale una stagione, lo vale per la Roma, ma lo vale anche per il calcio italiano, che non può permettersi di restare con due sole squadre in Champions per la quarta volta negli ultimi cinque anni. Ci giochiamo insomma tanto questa sera alle 20.45 nel ritorno del playoff di Champions contro il Porto, che per le italiane il playoff è tradizionalmente una specie di maledizione. Basta un pareggio per 0-0 per portare avanti la Roma, ma la Roma in Europa prende sempre gol, lo ha fatto in 30 delle ultime 31 partite, quindi a inseguire lo 0-0 c'è il rischio della beffa, però insomma, che vada avanti dovrebbe essere interesse di tutti, anche di quelli che legittimamente si fanno i conti in tasca e scoprono che in caso di eliminazione della Roma guadagnerebbero qualche soldino in più. 800 24 00 24 per le vostre sensazioni a poche ore da Roma a Porto, o per dire tutto quello che volete. 800 24 00 24, siamo in diretta fino alle 15. 349 238 6666 per i vostri sms e i vostri WhatsApp. Marino Bartoletti, ciao. Buongiorno, eri stato impeccabile e poi hai chiuso con quel messaggio romantico sui soldini in più che condividiamo naturalmente. Eh beh, ma sai, con grande ottimismo. C'è chi oggi si fa i conti in tasca, sono la Juventus e il Napoli che in caso di eliminazione della Roma insomma guadagnerebbero più soldi, ma io credo che oggi vada fatto un discorso di sistema, so che è difficile per i tifosi di queste squadre capirlo, però credo che oggi vada bene per tutti se la Roma va avanti. Oggi dobbiamo essere tutti romanisti, lo so che la cosa potrebbe fare un pochino senso a qualcuno, ma avremmo detto dobbiamo essere tutti juventini o dobbiamo essere tutti quello che dovremmo essere quando qualcuno si rappresenta in Europa, sinceramente, volando al di sopra delle nostre passioni. Si è cercato di proteggere la crescita di questo movimento, che qualche rigurgitino verso l'alto ce l'ha, ma che negli ultimi anni aveva troppo inciampato, e non dimentichiamoci dell'Europa League. Finalmente non dimentichiamoci dell'Europa lì. Sì, anche perché usciamo da un'estate che in realtà ci ha fatto scoprire, ad esempio, ma ne parliamo fra qualche minuto, che lo sport italiano è vivo e vegeto, anche se le previsioni prima delle Olimpiadi non erano delle migliori. Quest'estate abbiamo riscoperto una grande nazionale agli europei, siamo tornati a riempirci d'orgoglio per il colore azzurro. 800 24 00 24, anche per questo sarebbe importante che questa sera la Roma andasse avanti. Preliminari che sono sempre stati ostici per le italiane, 5 eliminazioni negli ultimi 6 anni, soltanto il Milan nel 2013 ce l'ha fatta, questo per dire che anche questa sera è tutt'altro che scontato. Marino, diamo le pagelle del martedì se sei d'accordo. Sono qua. Partiamo da quello che ci ha raccontato la prima domenica di campionato con la bocciata eccellente, l'Inter. Ma guarda, noi oggi possiamo tutti cercare degli alibi, dei cose, ma a me non mi piace cercare alibi. Noi dobbiamo rivedere, dobbiamo ripensare, ci dobbiamo parlare e affrontare nel diverso modo le partite e tutte altre cose. Abbiamo fatto il torneo, siamo stati in mezza squadra, più si viaggiava che si allenava, non c'era tempo neanche per l'allenamento, e questo non è la colpa neanche di un allenatore, anche un po' di organizzazione non è stata al massimo, c'è da dire che la nostra condizione oggi non è al massimo. Questo è Handanovic che ha dato i suoi voti e ha dato un bel 4 a come l'Inter si è approcciata a questa stagione. Il tuo voto, Marino, alla prima Inter di De Boer? Sarebbe un voto molto ingrato, diciamo. Tu hai detto Inter di De Boer per il momento passava di lì per caso. Io posso dirti, pur concedendogli tutta la fiducia possibile che il suo pedigree garantisce, che una grande società non cambia l'allenatore a una settimana dall'inizio del campionato. Tu mi dirai, è già successo fra Conte e Allegri, ammetterai che c'erano dei presupposti leggermente diversi dal punto di vista umano e dal punto di vista societario. C'era anche un mese in più, Marino, metà luglio contro metà agosto. E c'era anche un mese in più, cioè quello per fare tutta la preparazione. Quindi ti do dei voti variopinti, che sono 5 all'Inter, che pure a sua insaputa è riuscita a fare una squadra con un organico assolutamente accettabile, però non può comportarsi da società di provincia, e me ne vengono in mente un paio che non voglio citare in questo momento, perché comunque per me provincia è un'ottima definizione, anche se nel calcio non suona sempre bene, a volte in provincia sono degli esempi migliori di quanto non ce ne siano nelle grandi squadre. 5 all'Inter, 8 ad Handanovic, che si è dimostrato il capitano in pectore di questa squadra, dicendo quello che forse gli altri non avevano il coraggio di dire, si è comportato davvero uomo e davvero capitano. 4 a Icardi, non per la partita, ma perché quello che ha la fascia da capitano, venendo dalle esperienze a cui in qualche modo ci ha costretto ad assistere lui direttamente o i suoi parenti quest'estate, avrebbe dovuto metterci la faccia non tanto in campo ma negli spogliatoi. Resta un ottimismo di fondo per quello che l'Inter può fare, purché si ricordi di essere una grande società. Dopodiché la prima giornata, il primo turno è sempre un impostore. Ricordiamo quello che accade lo scorso anno a Juventus a Napoli. Sì, anche se poi in realtà qualche indicazione comincia a darla, e io non sottovaluterei ad esempio i punti persi in un campionato che magari è in fotocopia a quello dell'anno scorso, per cui per chi insegue il terzo posto anche lasciare per strada 3 punti a Verona può diventare problematico, se il livello del terzo posto come l'anno scorso si aggira poi intorno agli 80. Attenzione a non tralasciare nulla. Certo. Da buoni formichini. Quando si criticava gli 1-0 di Mancini lo scorso anno, io dicevo che mi risultava che gli 1-0 dopo una rapida inchiesta davano gli stessi 3 punti di un 3-0. Erano soldini, erano gettoni messi chiaramente nel salvadanaio della classifica del campionato. È chiaro che è una partenza falsa quella dell'Inter, però citavo l'esempio di chi lo scorso anno su delle partenze false, e parlo della Juve, del Napoli, ha costruito una stagione quasi incredibile. Dobbiamo augurarlo per lo stesso discorso che hai fatto all'inizio, perché l'Inter comunque, al di là delle fedi personali, è un patrimonio importante del calcio italiano ed è anche una sperimentazione importante del calcio italiano quest'anno, possa sicuramente riprendersi. L'altro voto lo diamo all'uomo che ci ha occupato il sabato sera. È stato molto difficile, ma alla fine ho scelto quello che pensavo che era il meglio per me. La risultata, se tu vedi tutti i gol miei, festeggio uguale. Non c'è nessuno che festeggia più tranquillo che l'altro. Per me tutti i gol sono importanti e bellissimo per un giocatore fare gol. Quindi in questo non condivido, sempre festeggio uguale. No, no, è stata una liberazione di niente. Che voto dai, Marino, alla pancetta di Higuain? Al cicciottello, si può dire, no, di un maschio cicciottello. Secondo me, tra l'altro, ha anche già perso un paio di chili. Ma sono le righe verticali che slanciano. No, c'è chi malignamente dice che gli hanno messo la maglietta più larga per evitare l'effetto visivo. Io credo in realtà che Higuain, lo conosciamo, tradizionalmente rientra un po' sovrappeso, ma altrettanto tradizionalmente rientra anche in forma abbastanza in fretta. Beh, non è mai stato una silfide, devo dire, e comunque effettivamente le battute sono scontate, voglio dire, meglio un Higuain con 2 chili in più e un gol in più che eccetera eccetera eccetera. Allora, cos'è accaduto sabato scorso? Qualcosa di molto importante. È accaduto che una società, per parlare della solidità di una società, si è permessa di mettere in panchina la prima giornata un signore che ha pagato 90 milioni di euro, cosa che altrove non sarebbe stato facilmente digeribile. Ma quando una società è solida può farlo per se stessa, per i suoi tifosi e per il diretto interessato. Higuain ha fatto capire una volta di più quello che in qualche modo sospettavamo, perché se è vero che 36 gol che ha fatto, facciamo una ventina, 25 sono attribuibili alla forza del sistema e degli schemi, però è anche vero che lui è un autoschema. E indubbiamente il gol di sabato scorso, forse leggermente fortunato, ma intanto era lì, appartiene a queste possibilità sue di inventare gol. Ecco, forse questo mancava alla Juventus e questo in questo momento temo che manchi al Napoli. Sì, Napoli, cioè, che dovrà anche trovare più alto di quello che la collettività dello schema della squadra ti mette a disposizione. Io insisto da qualche giorno che il Napoli dovrà anche ritrovare un po' di serenità, perché mi sembra che ci sia un'isteria assurda in questa estate del Napoli. Io l'ho detto ieri, non mi sorprende che abbiano bucato le due squadre che hanno vissuto l'estate meno coerente di tutte, cioè l'Inter e il Napoli. Secondo me esiste un filologico anche dietro tutte queste cose. qualche campione dei messaggi che stanno arrivando. 349-238-6666. I bocciati sono l'Inter come società, che secondo tanti tifosi non ha messo nulla alle spalle degli allenatori che ha avuto, ma anche De Boer, con i suoi errori marchiani, ad esempio Perisic in panchina, ad esempio la difesa 3 con Ranocchia, ad esempio la scarsa conoscenza del calcio italiano e del Chievo, che non è un alibi, Marino, per chi arriva. Adesso proviamo a recuperare il collegamento audio con Marino Bartoletti. Mi fate sentire il terzo argomento su cui voglio stimolare la pagella, ovvero il voto allo sport italiano che esce dalle Olimpiadi di Rio con 28 medaglie. Come voi sapevate, all'inizio c'erano tante perplessità, scetticismi, forse anche qualche eccessivo malumore su quello che potevano essere i risultati, però siamo rimasti lì nei primi 10, tantissimi bei piazzamenti, troppi quarti posti, molte diciamo delusioni in questo senso, però tutti i ragazzi e ragazze che credo che hanno fatto veramente una bella figura, cioè l'Italia esce proprio a testa alta, l'hanno detto tutti. Marino, che voto dai all'Olimpiade italiana? Italia. C'è qualche problema di collegamento. Olimpiade italiana che ha stabilito certamente un trend positivo rispetto a Londra 2012, con qualche argento in più, 3 argenti in più, lo stesso numero di medaglie. Olimpiade che all'inizio dava poche speranze. 800-24-0024 dava poche speranze di poter ripetere quel bilancio, quello di Londra. Vediamo se abbiamo recuperato Marino Bartoletti. Marino? Sì, la team ci aveva sottratto un 8 che ho dato alla spedizione italiana, assolutamente. Allora lo recuperiamo. Non tanto per il numero delle medaglie, che poi per vecchia polemica non si sa se contare o pesare, ma ce ne sono alcune che sono straordinariamente pesanti, straordinariamente fertili. Parlo di Valtrinieri, parlo di Viviani, parlo di altri ancora, e altre, anche se non d'oro, estremamente emozionanti. E sto parlando di tutti esempi, il nuoto, il ciclismo, la pallavolo, che debbono restare una buona semina, cioè la forza di queste Olimpiadi, che dovrebbe essere sempre la forza di un'Olimpiade, è quella dei buoni esempi. Il giorno dopo ci si rimbocca le maniche quando abbiamo la mentalità per capire che cosa di intelligente ci è stato sfornato, e dobbiamo far sì che i movimenti sportivi italiani sappiano in qualche modo trarre un buon vantaggio da quello che, al di là della seduzione del momento, delle emozioni delle notti passate, eccetera eccetera, deve far restare di solido in un paese che vuole guardare avanti. L'Inghilterra è riuscita addirittura a fare meglio dal punto di vista numerico della Olimpiade che ha organizzato in casa. Ecco, sarebbe bello se queste vittorie a cui abbiamo assistito, questi entusiasmi, queste emozioni che abbiamo vissuto, lasciassero qualcosa non tanto alle mamme che accompagnano i figli in palestra, eccetera, eccetera, ma chi alle palestre, alle infrastrutture, in qualche modo deve provvedere. Sì, l'Inghilterra, tra l'altro, che ha trovato un modo 20 anni fa per sovvenzionarsi, destinando i soldi di una grande lotteria nazionale a pagare lo sport, tutto ciò che non è calcio. Magari sarebbe interessante anche da noi fare qualcosa di simile, invece tutti gli anni di andare alla Questua per dare i soldi al CONI da girare poi alle federazioni. Noi ci eravamo arrivati 70 anni fa quando un signore, un nostro collega che si chiamava Massimo Della Pergola, inventò il totocalcio. Poi abbiamo un pochino disperso quell'idea, l'abbiamo un pochino annacquata, non sono stati all'altezza, come spesso succede, delle nostre invenzioni, del nostro genio, della nostra creatività. Non dimenticarti che per decenni le Olimpiadi italiane e quindi il CONI sono stati finanziati dal calcio e dal totocalcio. Adesso abbiamo perso un pochino la rotta, gli altri ci hanno copiato e ci hanno copiato in meglio. Questo è un seme, un grande seme che tutti devono raccogliere. Grazie Marino. Un piacere, ciao. Grazie Marino Bartoletti. 800-24-0024. Enzo da Pescara, Fabio da provincia di Foggia. Facciamo Enzo prima del traffico. Enzo. Sì, ciao, sono Enzo da Pescara, buonasera a tutti. Vi seguo sempre dai tempi di Garanzini. Sì. Siete fantastici. Io volevo fare una domanda al direttore Bartoletti e poi, se mi lasciate un secondo, anche una considerazione per il direttore. Dai, che non ti ascolta, ma gli gireremo la domanda. Vai. Grazie. Al direttore chiedo semplicemente lui che previsioni fa per il calcio italiano, se le nostre squadre di Serie A, almeno le più importanti, non si rendono autosufficienti con lo stadio di proprietà. Quanto tempo ci vorranno almeno 15 anni, ti rispondo io, sempre che si riesca a partire. I primi a provarci dopo la Juventus, l'Udinese, Sassuolo sono quelli della Roma, ma anche lì si parla di anni, gli altri hanno soltanto progetti sulla carta e nemmeno approvati. Poi Enzo, l'altra considerazione? La considerazione brevemente, dico soltanto questo: il direttore Bartoletti, che io amo sì, professionalmente. Sì, che però ti ho già detto che uomo... non ti ascolta, gli gireremo sì, le considerazioni. Sì. Prego Enzo. Un uomo di equilibrio, di professionalità, di modi, è un database vivente. Io penso che se facendo i dovuti scongiuri, se si dovesse fare un coccodrillo ora, non sarebbe alla stregua di Viola, alla stregua di Cannavò, alla stregua di Ciotti, piuttosto che di altri grandissimi giornalisti. Io non trovo giusto che lui non sia un conduttore o un direttore di una grandissima testata o di una grande trasmissione televisiva o radiofonica. Grazie. Grazie a te Enzo, però se permetti il coccodrillo aspettiamo a farlo, a Marino Bartoletti. Noi ci limitiamo ad ospitarlo il martedì per le sue pagelle e le sue considerazioni. C'è il traffico. De Bruyne a Milano vuol dire che sei di burro. Sa mai che dura poco quello lì a Milano al sole, Tutti convocati. Tutti convocati. Se volete mandarci le vostre pagelle sulle Olimpiadi siamo qui, 800 24 00 24, Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Bene, siamo in una giornata già importante, di quelle che vale una stagione, l'abbiamo detto all'inizio, c'è chi dice altro che tifare tutti per la Roma, insomma ognuno si fa i suoi conti, forza Porto, c'è chi ci chiede di spiegare meglio la storia di chi guadagna di più se la Roma esce. Beh, guadagnano di più Juventus e Napoli, che si dividono da sole o quasi la torta dei diritti TV legati alla Champions, quindi sono milioni di euro, però... ne parlavamo prima con Marino Bartoletti, oggi vale la pena fare davvero una considerazione di sistema, Pier, dopo l'estate dell'Europeo, dopo l'estate che in un qualche modo ci ha rilanciato. Ma assolutamente sì, guarda, noi siamo da una vita siamo laici sul concetto di gufaggio o di fare per le italiane, nel senso che poi tanto alla fine ognuno fa come gli pare e perché al cuore non si domanda, quindi se uno vuole gufare la Roma ci mancherebbe altro che il tifoso della Lazio. Non posso essere libero di farlo, tanto per fare un nome, o anche i tifosi di Juve e Napoli, anche per un discorso economico. Però è chiaro che sarebbe buono per il calcio italiano se la Roma passasse il turno. Questo non ci sono dubbi, sarebbe buono per il sistema calcio, che mi rendo conto può essere vista come una cosa un po' vaga, un po' generica, ma in realtà invece è quel meccanismo che si innesta, che fa sì che un campionato possa crescere, che un movimento calcistico possa crescere, che possa essere percepito come qualcosa di più importante, quindi con i giocatori che ci vengono più volentieri, con gli sponsor che investono, e la terza squadra in Champions molto importante da questo punto di vista, quindi non ci sono dubbi. Poi è ovvio che sì, ognuno poi fa quello che vuole, però, Anche se poi lo diciamo, avremo modo nei prossimi giorni di parlarne, che la Champions sta per cambiare, l'Italia recupererà a breve la quarta squadra a prescindere, perché cambierà un po' tutto il format, sarà un po' meno meritocratico, un po' più legato al business, tutti discorsi però che questa sera non ci interessano. Vivo per lei da quando sai. La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Scelgo il fare le cose, non ci affideremo al destino. Siamo noi che determiniamo quello che sarà il nostro destino domani. Si va a giocare la partita a testa alta, a tentare di vincere la partita fin da subito e non ad aspettare che loro poi vengano a giocare ricercando poi il gol, perché debbono fare gol, ecco. Vivo per lei. Partita vi aspetta, non è la partita di domani, aspettano. Siamo noi che vogliamo andare a incontrare lei, siamo noi che l'abbiamo desiderata per 8 mesi, siamo noi che abbiamo lavorato per essere qui domani, è quello che volevamo, è quello che desideravamo. E lei è dall'anno scorso che è tutto per noi. è quella che ci può dare le chiavi per salire sul palcoscenico più prezioso d'Europa. Noi siamo pronti a giocarla. Questo Spalletti ieri, saluto anche Antonio Di Gennaro, ciao Antonio. Buonasera a tutti. Mi dite che sensazione avete tu, Pierluigi Pardo, in vista di questa sera? Parto io? Sì. Vai, dice. Ciao Pier, ma una sensazione positiva, perché sentendo anche Spalletti, vedendo un po' diciamo anche la partita dell'andata e anche l'ultima contro Udinese, mi sembra una Roma in grande spolvero, e Spalletti ha caricato un po' tutto l'ambiente, chiede anche ai tifosi di venire in massa all'Olimpico, perché stasera serve veramente tutto per centrare un obiettivo che, giustamente, come diceva Spalletti, è 8 mesi che stanno lavorando su questo. Sappiamo che la Roma, la Champions è fondamentale per adesso, per il futuro, per un eventuale anche ultimo acquisto del mercato, quindi sono tutte le premesse, tutte le situazioni affinché questa squadra è anche più forte. Io lo dico senza mezzi termini, è una buona squadra, sì, il Porto, però credo che sia l'andata, a parte la squalifica di Vermaelen, la Roma aveva dimostrato di essere superiore. Poi sappiamo che il Porto verrà qui con una squadra giovane che nel palleggio cercherà di mettere in difficoltà ovviamente la squadra di Spalletti, però credo che ci siano tutte le premesse affinché stasera sia una festa e una partita sicuramente vincente per la Roma. Sì, resta il rammarico, Pier, di non averla chiusa là quando sì. Si poteva. Sì, io ero molto ottimista prima di Porto, mi aspettavo, posso dirlo, una vittoria della Roma, ma aspettavo che la Roma, che secondo me è più forte del Porto in valore assoluto come effettivi, potesse fare una partita ancora migliore. Il risultato è buono, ma ovviamente non ti tiene al riparo da brutte sorprese. Devo dirti che Spalletti ieri mi è piaciuto per quel poco o tanto che sia che contano le conferenze stampa, cioè ha detto le cose che secondo me la Roma dovrà fare. La Roma non può pensare di speculare sullo 0-0. Dovrà giocare la partita, secondo me, in maniera cautamente offensiva, a delante ma con giudizio, perché chiaramente, anche questo Spalletti l'ha detto, il fatto di non avere 2 gol da recuperare, 3 gol da recuperare, ti dà la possibilità di non avere l'ossessione di dover fare il gol subito, e magari ti può anche concedere qualche spazio in più, perché il Porto prima o poi si dovrà aprire. Però la Roma deve fare la partita, la Roma deve giocare per fare 2 gol, secondo me, questa sera. Sì, anche perché c'è quel dato, lo ricordavamo prima, in 30 delle ultime 31 partite in Europa la Roma ha preso gol. Sì, cosa che consiglia oggi di evitare di pensare allo 0-0. Anche se il passato francamente, secondo me c'è un pre e un post Spalletti nella Roma, quindi questo insomma, va riconosciuto con tutti i meriti di Garcia, che comunque ha riportato questa squadra a metabolizzare il lutto di quella Coppa Italia persa, la contestazione, ha fatto delle cose importanti, ce l'ha riportata Garcia in giro per l'Europa questa squadra, però mi sembra che Spalletti poi gli abbia dato un'inquadratura completamente diversa. E stasera credo che la Roma debba giocare per vincere la partita, debba giocare come se si fosse veramente sullo 0-0, perché secondo me ha dimostrato 11 contro 11 a Porto di poterlo fare, perché c'è una grande spinta del pubblico. Io credo che stasera, io esprimo, l'ho fatto mille volte, la solidarietà soprattutto a Roma, perché insomma essere tifosi è diventato difficilissimo in tutta Italia, a Roma particolarmente, perché ci sono anche delle situazioni specifiche di quella città, quindi è diventata veramente una gincana riuscire ad andare allo stadio, e questa cosa forse non la si dice neanche abbastanza. Però ecco, stasera insomma, tu non mi perdonerai le disore, perché la partita ovviamente è in esclusiva su Premium, ma chi è tifoso della Roma ha la possibilità di andare allo stadio, credo che possa vivere una grande notte. Possa... Sì, credo non siano più di 30.000 da quello che mi pareva di aver colto. Vedremo. L'altro giorno ci si aspettava meno gente, alla fine erano, se non sbaglio, 34-35 mila, che per una prima giornata di campionato, con tutte le polemiche che ci sono state di 20 agosto, non era male. E stasera è ancora più importante, feriale, sono passati 3-4 giorni, quindi mi aspetto qualcosa in più. Ma detto questo, insomma, è chiaro che poi la Roma deve fare una buona partita, secondo me è più forte del Porto, non deve fare sciocchezze. Una sciocchezza l'ha fatta all'andata, che è stato il primo giallo, ancora di più del secondo, di Vermaelen, che poi l'ha costretta a giocare una partita molto molto complicata, dalla quale è uscita con un buon risultato. Se stasera fa una buona partita senza grosse sciocchezze, passa al turno. Antonio Di Gennaro, ma questa Roma è già più forte dell'anno scorso? O ha ragione Spalletti, insomma, fa capire, magari qualcosa potrebbe arrivare a metà campo, perché Paredes non è Pjanic. Sì, Paredes non è Pjanic, ma neanche Borca è Pjanic. Sono due giocatori diversi, secondo me. È normale che cerca Borca Valera per dare ancora più qualità. Io credo che a livello difensivo la perdita di Rudiger e di Mario Rui ha un po' scompensato i piani, però credo che ci può essere il ritorno definitivo di Dzeko, che ovviamente ha portato quel gol mancato, però mi sembra un giocatore dal punto di vista fisico ritrovato. Il gol con l'Udinese, anche se molto facile, però per un attaccante come Dzeko potrebbe essere veramente là una rinascita completa. E Dzeko vero nella Roma garantirebbe quella forza che è mancata gli altri anni, nonostante Spalletti abbia compensato con il falso 9, con prestazioni veramente importanti sotto il profilo del gioco. E poi se non arriva Borca non c'è più Pjanic, ma credo sia tornato un certo Strootman, anche perché insieme a De Rossi, anche lui in grande forma, mi sembra che sia una Roma con N'Golan a livello di centrocampo meno magari forte a livello tecnico, ma molto muscolare, molto di personalità, e quindi credo che la Roma adesso insieme a Napoli mi sembra l'alternativa alla Juventus. Sì, certamente. Grazie Antonio. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie Antonio Di Gennaro, questa sera su Premium per Roma Porto 800 24 00 24. Vi aspetto, Enrico da Terni. Pronto? Eccoci Enrico. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Vorrei tornare un attimo sul discorso dell'Inter. Io sì. Credo che la società, ogni anno siamo una specie di barzelletta, diciamo, no? E forse quest'anno la società, non dar via Icardi, ha fatto una grossa sciocchezza, mio modesto parere, per carità. Anche perché un giocatore a 23 anni che ancora non ha vinto niente, tutta quella valutazione, tutte quelle foto pubblicate, del lusso, sfrenate, tutte quelle cose, secondo me un capitano, cioè l'esempio di una squadra è tutt'altro. Pier. Per carità, ricordarsi Zanetti sarebbe troppo bello, sì, però il capitano è quello. È anche inutile, e poi credo, ma ne parlavamo anche ieri Pier, che vada diviso il discorso su Icardi giocatore, Icardi capitano. È evidente che Icardi capitano, guarda, non ha il profilo. Icardi capitano, sono d'accordo che non è una scelta secondo me straordinaria, perché non, secondo me innanzitutto è ancora molto giovane. Non credo che i tifosi lo possano percepire in questo momento, non ancora, come un capitano, e penso che non abbia tante qualità, ma non mi sembra che abbia quella personalità in campo per farsi sentire nel rapporto con gli arbitri, quindi francamente sono d'accordo sulla fascia di capitano, che non si può trovare di meglio. Sull'aspetto tecnico però francamente è un giocatore importante, poi si poteva certamente a 60 milioni si poteva vendere la teoria di Rabadri ieri sera, e a quel punto con De Boer sarebbe andato magari su Milik, oppure avrebbe fatto una scelta diversa. È mancata un po' di programmazione complessivamente all'Inter quest'anno, non c'è dubbio. Beh, basti pensare che Erkin probabilmente se ne andrà prima della fine del mercato. Esatto. Quindi no, che ci sia stato, ripeto, che l'estate dell'Inter sia stata un'estate abbastanza surreale, molto poco lineare e con un equivoco di fondo che è stato risolto soltanto pochi giorni fa e che ha portato alla scelta di Mancini, al cambio in panchina, questo è indiscutibile. Però Icardi tecnicamente è uno di quei giocatori che secondo me è meglio avere che non avere, ma so che è banale dirlo. 60 milioni secondo me è una valutazione che con i prezzi alti che ci sono dall'anno scorso ci sta, per cui non lo so, io non ho certe matematiche, secondo me 60 milioni si potevano anche rifiutare, poi ammesso che questa offerta sia realmente arrivata, perché poi l'abbiamo letto sui giornali, grande rispetto ovviamente per tutti i colleghi che scrivo di mercato, però insomma, la mano sul fuoco non ce la metto. Sicuramente siamo in quell'ordine lì, sicuramente il Napoli ha fatto dei sondaggi, sicuramente il Napoli aveva e ha dei soldi da investire, però insomma non è detto che siamo proprio stati che sia davvero arrivato l'assegnone da 60 milioni. E poi comunque credo che qualunque tipo di offerta ad agosto si rifiuta se sei un grande club. Poi è arrivato tardi. Esatto, perché poi tutti sanno che a quel punto hai i soldi, e quindi quando poi vai a ricomprare, a parte che i migliori probabilmente non li trovi più, hai meno potere d'acquisto. Abbiamo la borsa, Pier, torniamo subito. Siamo a casa nostra, era 8 mesi che cercavamo di rientrare a casa nostra e dobbiamo fare quelli che fanno i padroni, perché siamo a casa nostra, non l'abbiamo voluta. Tutti quelli che entrano dentro debbono adattarsi a questo modo di pensare. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. A tutti noi ora con l'arrivo di Bruno Perez abbiamo la possibilità di avere anche quando giocherà lui un centrocampista in più, perché Florenzi può giocare anche a centrocampo, per cui per il momento noi siamo a posto così. Di Maksimović non voglio più parlare, perché come ho detto mi è deluso come uomo e il suo futuro è nelle mani della società, perciò non voglio più spendere il tempo e parole per lui. Prima dobbiamo fare attenzione a quello che purtroppo dobbiamo ripetere, però è la verità, che è la questione del fair play finanziario, e dopodiché valuteremo se possiamo fare un'altra acquisizione. Per il momento credo che sarà molto difficile. Bacca, c'è stato un momento in cui le sue aspirazioni, le sue ambizioni e anche la situazione, no, la conoscete meglio di me in generale, c'è stata la possibilità che potesse andare via. Zaza, con lui abbiamo parlato, abbiamo condiviso l'idea di un trasferimento che non è certo una punizione, ma il fatto di poter trovare più spazio rispetto alla Juventus, rispetto alla concorrenza che potrebbe trovare qua. C'era l'ipotesi di Wolfsburg, poi tutto è sfumato. In questi tempi, più o meno un anno fa, arrivava Cuadrado alla Juventus, le chiedo se si ripete la stessa situazione. Da parte nostra abbiamo avuto contatti con la società, per cui nei prossimi giorni auspico che si possa definire, però oggi è un giocatore del Chelsea, quindi sta a loro poi decidere il destino. Mancano 8 giorni alla fine del mercato, l'umore della gente, Pierre, è variabile. Tifosi dell'Inter che stanno scrivendo in massa, 349-238-6666, Icardi andava venduto, 40 milioni, Gabbiadini, chiunque meglio di lui. Fino a 2 settimane fa arrivavano esattamente i messaggi contrari. Ma sì, perché una partita. Il risultato fa vagamente opinione, quindi il risultato è la prestazione anche di Icardi l'altro giorno, perché poi al di là della sconfitta dell'Inter, che quindi può portare a un certo livello di critica, però c'è anche proprio la prestazione di Icardi che non è stata all'altezza, e sicuramente se Icardi fosse sempre quello che si è visto l'altra sera, probabilmente neanche 20 milioni vale, però sappiamo che Icardi invece è un giocatore che ha numeri molto importanti, lo conosciamo benissimo, sappiamo che ha un margine sicuramente di crescita, perché è un giocatore che secondo me gioca ancora non troppo bene con i compagni, perché è un giocatore che tende qualche volta ad assentarsi dalla partita e non è esattamente un giocatore generosissimo nella partecipazione al gioco della squadra. Però sappiamo, oltre a questi difettucci, che poi ha dei grandi pregi. Sì. Tipo ad esempio che fa gol praticamente, fa tantissimi gol, una partita ogni due. In area di rigore è fortissimo, è molto giovane e quindi insomma se riuscirà a crescere diventa un fenomeno Icardi. Poi non lo so se questo accadrà, però non lo escluderei. Per cui ripeto, adesso è normale che l'opinione delle persone sia condizionata un po' anche dalla partita, dal risultato dell'altro giorno. Sì, certo. Mancano 8 giorni alla fine del mercato. Mario Giunta, ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ci dici chi si sta muovendo di più? Ma guarda, in realtà si stanno muovendo tutte con le loro necessità, tutte con i loro obiettivi per questi ultimi 8 giorni. Sembra che in questo momento il ruolo, ecco, più importante da andare a coprire un po' per tutti, poi che sia leggermente più offensivo, leggermente più regista, sia il centrocampista, perché lo cerca la Juventus con Cuadrado, che è un centrocampista molto offensivo, lo cercherà e tenterà l'Inter l'assalto a Sissoko o a João Mario. Il Napoli si è sistemato con Rog, Zielinski e ultimo Diawara, anzi ultimo Rog, proprio se dobbiamo essere precisi in ordine cronologico. Poi c'è anche il Milan, da non dimenticare. Sentivo che prima nel blob dei vari delle varie voci di mercato, si parlava di Bacca, tra l'altro è stata rifiutata un'altra offerta del West Ham. Quindi Bacca resta, lo possiamo dire all'alba del 23 agosto? Bacca resta, perché West Ham dopo la tripletta di della partita contro il Torino ha tentato nuovamente di bustare alla porta del Milan, il Milan ha rifiutato. Mi sembra che sia un segnale molto chiaro per il mercato di Carlos Bacca. Dicevo, poi anche il Milan sta cercando un centrocampista. I nomi, o meglio i sogni di Montella, sono Kovacic e Paredes, ma che sono due piste in questo momento al 23 di agosto molto molto difficili da raggiungere, sia per prezzi sia perché Roma e Real Madrid in questo momento hanno alzato la posta e hanno cambiato le condizioni sul tavolo della trattativa. Ecco. Mi aiutate a capire, largo anche a Pierluigi Pardo una cosa, come fa un club che sta trattando giocatori da 30, 40, 45 milioni di euro, mi riferisco all'Inter, avere un vicepresidente che dice che siccome ci sono i paletti del fair play finanziario non si può acquistare nessuno? Questo io vorrei che me lo spiegasse Giunta, perché quando ho sentito quella frase di Ariel Zanetti l'altro giorno, francamente sono rimasto abbastanza basito, perché allora o è tutto falso quello che stiamo sentendo su João Mario, dove io dico la mia: João Mario secondo me è un buon giocatore, ma se l'Inter va veramente a spendere 40-45 milioni per João Mario, secondo me fa una follia. Cioè, fa una cosa, cioè, se João Mario dovesse esplodere, nella migliore delle ipotesi si avvicina a quel valore di mercato. Correggetemi se sbaglio, ma insomma, Pjanic a 32 milioni, 34, 30, perché poi c'era la commissione, probabilmente poco. Però diciamo Mario a 40, sì, 45 mi sembra veramente una follia. Però ecco, su quella frase di Javier, presidente onorario, presidente Zanetti, francamente sono rimasto abbastanza basito. No, sai che c'è, Pier, che qualcuno in realtà poi dovrebbe spiegarci, qualcuno che poi tratta seriamente, guarda i bilanci e parla con la UEFA, dovrebbe spiegarci anche a noi che parliamo di mercato e commentiamo realmente poi come funziona questo fair play finanziario e realmente quali sono i paletti che mette la UEFA a determinate società, perché in questo momento è vero, avete perfettamente ragione, che sembra una contraddizione di mercato, nel senso che l'Inter con Zanetti che dice che dobbiamo rispettare il fair play finanziario, ma dall'altra una società è una proprietà pronta a spendere 30, 35, 40, poi vedremo quale sarà la valutazione del centrocampista. Quindi io posso soltanto pensare che a questo punto, per arrivare a un centrocampista dalle qualità di Sissoko o dalle qualità di João Mario, l'Inter possa privarsi di un giocatore come Brozovic, che da quanto abbiamo capito, insomma, è la valutazione che fa l'Inter, che vuole l'Inter per Brozovic, che aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Anche qui è una valutazione molto molto importante. Sì. E soltanto questo ragionamento posso e mi sento di fare, perché realmente sul fair play finanziario se ne sono dette tante, se ne stanno continuando a dire tante, ma in realtà in pochi capiscono quello che e in pochi sanno realmente cosa vuole la UEFA, perché poi a seconda di ogni società cambiano le sanzioni, cambiano sì, ma lì è tutto scritto in quell'accordo sottoscritto per evitare di entrare nelle sanzioni e che insomma abbiamo provato a spiegare più volte, e che adesso detto proprio in soldoni è totalmente incompatibile con questo tipo di mercato, salvo che essendoci una nuova proprietà esiste comunque la prospettiva nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di andare a riconsiderare alcuni di quei paletti. Però oggi siamo qui, cioè oggi siamo alla possibilità che verrà esplorata nei prossimi mesi. Assolutamente. Altro non si va. Volevo girare ancora due domande velocissime a Mario Giunta. La prima, se gli risulta che il Napoli stia spingendo per Zaza ed eventualmente perché, avendo già Gabbiadini, Milik e magari qualche problemino a tenere fuori Mertens. No, risulta la pista Zaza-Napoli, sì, quello sì, ma l'hai detto nella domanda, c'è la risposta, nel senso che comunque il Napoli, prima di tentare un assalto in questi ultimissimi giorni di mercato, un giocatore come Zaza, dovrebbe farne uscire uno, e quell'uno sarebbe Manolo Gabbiadini, perché poi lì davanti davvero iniziano a essere tantini per il ruolo di prima punta. Poi è vero che sono tutti giocatori che si possono adattare anche lì al gioco di di Sarri, almeno questo è quello che ci risulta, questo è quello che sappiamo. Poi bisognerà vedere anche la reale volontà appunto di un giocatore come Zaza nell'accettare il progetto Napoli, quindi nell'accettare ancora per un altro anno una concorrenza importante. Vedi Milik, vedi Gabbiadini se dovesse rimanere, vedi comunque Mertens, Insigne, Gaglione, è vero che sono ruoli diversi ma comunque sono in tanti in attacco. L'ultima domanda invece è sulla Roma, facendo tutti gli scongiuri, se questa sera dovesse andare bene, dove li spendono quei soldi? Potrebbero spenderli per un centrocampista, potrebbero spenderli per questo famoso nome di Borja Valero, che è un nome che ormai gira e orbita intorno alla Roma da diverso tempo, però è chiaro che mettersi al tavolo con la Fiorentina in questo momento non è facile per la Roma, visti i precedenti rapporti, e quindi molto conterà anche la voglia del giocatore, la volontà del giocatore eventualmente di andare a sposare un progetto diverso da quello che in questo momento ha con la Fiorentina, quindi di alzare l'asticella anche delle sue ambizioni professionali, visto che Borja Valero ha superato ormai da tempo 31 anni credo che abbia Borja Valero, però potrebbe essere l'ultimo treno della sua carriera. Esatto, ecco, qui volevo arrivare. Posso dirti, tutto coincide ovviamente, se la Roma dovesse prendere la qualificazione in Champions, secondo me l'esigenza del giocatore, l'esigenza della Roma, alla fine anche l'esigenza della Fiorentina di monetizzare e di ripartire, a me poi il mercato mai dire mai, però mi sembra proprio una trattativa apparecchiata in caso di qualificazione della Roma. È un giocatore che alla Roma serve tantissimo e l'abbiamo visto secondo me soprattutto in Portogallo, un giocatore che in questo momento la Roma non ha, perché al di là del fatto che Strootman e Paredes non sono meglio di Pjanic, questa qui è una cosa che ha detto Spalletti dal suo punto di vista giustamente per dare un segnale ai giocatori, per dare un segnale all'ambiente da persona navigata intelligente qual è, però non sono meglio di Pjanic. Paredes perché è ancora molto giovane, Strootman perché comunque è un giocatore con caratteristiche diverse, e l'altro giorno contro l'Udinese si è visto benissimo che contro squadre a difesa schierata la Roma manca un po' di qualità nel possesso palla in mezzo al campo, e proprio poi per Rossi gli era risolta, ma uno come Borja Valero serve tantissimo e serve anche in situazioni complicate per palleggiare. Alla Roma in questo momento, la Roma ha mille cose buone, gli manca un po' di palleggio in mezzo al campo, che era quello che gli poteva dare Pjanic. Sì, gli manca il regista dietro, quello che dà i tempi, esatto. Ed è capace di farla girare. Abbiamo il traffico, 10 secondi Mario Giunta, ti giro un messaggio che è arrivato, 349-238-6666, Lele da Bologna, quante possibilità ci sono per Balotelli? In questo momento, guarda, Balotelli è un punto interrogativo che ci porteremo presto per tutto il mercato. È una variabile impazzita di questi giorni, per gli ultimi giorni di mercato. Il Bologna potrebbe essere una possibilità, anche perché abbiamo sentito le parole di Saputo, no? negli ultimi giorni. Però sai, se Balotelli ovviamente si deve abbassare l'ingaggio, ci deve essere anche il Liverpool che paga una parte dell'ingaggio per il Bologna, devono coincidere tante variabili, quindi io non mi sbilancerei sul futuro di Balotelli per il Bologna o per il Chievo, per il Pescara o per chi volete voi. No, però prima o poi da qualche parte dovrà accettare di andare, anche riducendosi, perché ragazzi, cioè, pensare che stia a Liverpool credo sia per te va la Lazio, anche è un terno all'otto, Lazio, io non sono un esperto di mercato, però devo dire la verità che fra tutte queste mi sembra che sia un giocatore comunque che la Lazio mi sembra la soluzione più credibile tra quelle che ho sentito, o magari anche la Fiorentina, cioè secondo me una squadra di quella fascia lì con un tetto ingaggi un pochino più alto, nel caso della Lazio secondo me c'è anche questo tentativo da parte di Lotito, che in realtà ci ha provato già con Bielsa, di fare qualcosa di diverso dal solito. Poi ripeto, con Bielsa gli è andata malissimo per carità ed è stato un boomerang, però da parte di Lotito si è visto anche per esempio con Peruzzi, c'è il tentativo di riaccendere un po' di entusiasmo nel popolo biancoceleste, che ce l'ha con lui ancora molto, e quindi sai, Balotelli ha mille difetti e può essere un boomerang, però può essere anche uno che se in qualche modo riesce a beccare una stagione buona ti dà tanto tecnicamente, ti dà tanto anche in termini proprio di entusiasmo da riaccendere. Sì, potrebbe anche essere un'ottima operazione di marketing, cioè, certo. Personale di Lotito. Abbiamo il traffico, siamo anche in ritardo, ringrazio Mario Giunta. Grazie a voi ragazzi, buon pomeriggio. Ciao. A tutti. Ciao Mario, grazie. Ciao. 800 24 00 24, traffico, torniamo subito. Qui si fa fatica ragazzi. tutti convocati. Tutti convocati. Andy da Rimini. Andy. Dottor Capuano, buonasera. Eccoci. Buonasera, dottor Pardo. Sì, buonasera, dottore. Ciao. Dottore. Dica, ingegnere, non va bene. Volevo solo sapere da due esperti come voi due. Ho sentito prima che il dottor Pardo ha detto che l'allenatore della Roma ha già detto che Strootman non è meglio di Pjanic. Io ieri ho seguito Tiki Taka fino all'una e mezza, alle due, e qualcuno ha detto che alla Roma non gli manca niente a livello di centrocampo, perché Strootman può coprire quel ruolo che Pjanic ci ha lasciato libero. Secondo voi questo è possibile? No. E poi un'altra domanda, no. Solo. Il carattere di Higuain alla Juve, lì davanti, potrebbe sostituire quella mancanza che non ha Mandzukic? Cioè quella grinta, quella forza, quella spinta in avanti. Andy, mi sembra che l'unica cosa che non manchi a Mandzukic sia la grinta, però magari sbaglio. Mi sembra che Higuain semmai vada a colmare un'altra cosa, cioè quella capacità di fare gol in qualunque situazione, e lo abbiamo già visto sabato, gli sono bastati 8 minuti. Ma ragazzi, Higuain, Higuain è un fenomeno, è uno dei migliori attaccanti al mondo. La Juve ha fatto un investimento di medio breve periodo, poco da Juve, lo sottolineava a proposito di Tiki-Taka ieri sera Mughini, nel senso che la Juve storicamente non è una società che fa grandi acquisti, che fa delle follie. Higuain è stata una follia ragionata, ma una follia, nel senso una cifra enorme per vincere subito, per fare un salto di qualità subito, è legittimo. La Roma l'ha fatta, per riprendere il tema di prima, con Batistuta nel 2000, e l'anno dopo ha vinto il campionato pagandolo 70 miliardi, che ai tempi era una cifra veramente molto importante. Sul discorso di prima, no, e Spalletti ha detto in conferenza stampa l'altro giorno prima di Lomudinese che Paredes e Strootman sono meglio di Pjanic. Ripeto, io non credo che sia così, ma soprattutto sono giocatori con caratteristiche diverse. Si può anche vincere senza giocare, senza avere un regista tipo tradizionale, non è che è obbligatorio, però io penso che non guasterebbe. Se c'è qualcosa in questo momento, se c'è una cosa da andare a pescare per completare una squadra che già di per sé è molto buona, secondo me è quel giocatore lì, e Borja Valero mi sembra che risponda pienamente al profilo. Sì, anche perché per la Roma di Spalletti non ha neanche un vero trequartista, perché ha Nainggolan, che però è un giocatore comunque diverso, più di corsa diciamo che di tecnica, quindi non ha nemmeno spostato avanti di 20 metri chi è in grado magari di far girare il pallone. Alessandro D'Ancona. Buongiorno Giovanni e buongiorno a Pierluigi. Ciao. Rientro dalle vacanze e voglio fare solo due considerazioni con voi per quanto riguarda la Juventus. Se, come ha detto l'altra sera Marotta, la Juventus avrebbe acquistato lo stesso Higuain anche senza la cessione di Pogba. E poi un'ultima considerazione, se è vero che Schweinsteiger sta rescindendo il contratto con lo United e potrebbe accasarsi tra di noi. Grazie, vi ascolto per radio. Su Schweinsteiger non lo so, cioè che stia andando via dallo United è chiaro, che possa essere un profilo per la Juventus secondo me è un po' meno chiaro. Sul resto, Pier? Beh, no, per scopo, dico prima una cosa su Schweinsteiger, che secondo me è un giocatore, è una bella scommessa, nel senso che ha avuto un calo anche abbastanza vertiginoso, adesso è completamente fuori dai radar di Mourinho, però potrebbe essere anche una, in mancanza di meglio, potrebbe essere una soluzione interessante, per esempio per il Milan potrebbe essere una soluzione interessante. È un giocatore comunque che fino a un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, aveva un livello elevatissimo, quindi può darsi pure che abbia ancora un paio di stagioni importanti da dare. Grazie Pier. Ciao, ciao. A domani. Belotti contro Donnarumma. Parte Belotti. Destro Donnarumma! Il boato di San Siro! la Lazio con il gol numero 3 firmato Cristiano Lombardi. Ancora Kessi può mettere il pallone dentro e segna il gol del 3-1. Kessi, primo gol in Serie A da posizione impossibile. Su Federico, lui l'ha detto già dall'inizio della stagione, ci ha integrato molto bene, è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che ha molta mentalità, è un ragazzo che ha dei valori giusti per diventare una lavandera di questa Fiorentina, che credo che ci ha bisogno. Piccolo riassunto della domenica, che è stato anche il ballo dei debuttanti, dei tanti giovani. Noi sprecheremo sempre parole per la Serie A, che è un campionato per stranieri, ma qualche segnale si è visto. Paolo Ghisoni, ciao. Buon pomeriggio. Qualche segnale timido si vede di ragazzi che si affacciano. Sì, qualche segnale timido, italiano soprattutto, a parte l'ottima prestazione di Kessi. Sì. Secondo me va fatto un distinguo su individualità e poi quello che in realtà qualcuno si è accorto essere veramente un modello italiano a tutti gli effetti, che ci potrebbe riportare occupiato nel grande calcio, che è quello del Sassuolo. Sull'individualità sentivi Bardi, anche quello di Petagna, insomma, che non è stato messo, ma che comunque come prospetto, essendo 95, rientra ancora in una categoria teorica di giovani. Ripeto, il distinguo va fatto secondo me vedendo un po' i parametri europei, cioè noi in Italia siamo abituati, era ancora giovane un ragazzo del 91, del 92, quando in realtà i parametri degli altri campionati parlano di giovani quando alla fine giocano 96, 97, addirittura 98. Guardando un po' le individualità, oltre a quelli già citati, insomma, secondo me vale la pena di soffermarsi più su quello che sta facendo il Sassuolo come squadra, ovvero domenica contro il Palermo, causa turnover, squalifiche, un solo straniero in campo, De Frel, un 92 Antei, un 93 Politano, un 94 per il quale va fatto un ragionamento anche un po' a parte. Secondo me sta veramente facendo vedere il vero motivo del rifiuto della Juventus, perché al quarto anno adesso sta diventando o sta ritornando un giocatore di grandissima prospettiva con le giuste dinamiche di crescita. E poi 2,95 che sono Sensi e Mazzitelli, senza considerare Pellegrini 96 che è fuori per un problema caviglia. Cioè Sassuolo sta facendo veramente vedere come si può fare calcio italiano di grande qualità, perché la prima mezz'ora vista il Barbera è veramente, non so, per quanto mi riguarda, anche sono un po' di parte, sì, un'ottima partita. E poi, ripeto, l'età media è uno zoccolo duro di italiani che alla fine fanno crescere poi i giovani, perché lo ricordiamo il Milan di Sacchi, no? Quando poi aveva sicuramente giocatori fortissimi a livello internazionale, poi però quando entrava Mannari, tanto per fare un nome, era uno capace ancora di fare la differenza, sì. Ma forse non ha torto, certo, non è un paradosso quello di Squinzi, che sta alzando sempre più l'asticella del Sassuolo. Abbiamo meno di un minuto, Paolo. Io volevo chiederti una cosa a proposito di Berardi. Sentito oggi Ventura, pare di capire, dovrà attendere ancora un giro per entrare a far parte della nazionale. Ti sei dato una spiegazione? Mi sembra, se posso usare un termine, una cavolata, perché Berardi è stato cresciuto, svezzato da due allenatori, ma bastone carota ne sanno qualcosa, che sono Di Francesco e soprattutto Gigi Di Biagio, che l'ha andato a recuperare quando rifiutava le convocazioni con l'Under 19 per motivi personali. Berardi è un caratteriale, ma un ragazzo molto sensibile, che dà un'impressione totalmente sbagliata per chi non lo conosce, però credo che quest'anno sia partito in quattro gare con 5 gol, un assist, traverse un palo. Rifiutare la convocazione o non prendere in considerazione un giocatore che parla con i numeri e non con il carattere mi sembra andare un po' dietro quello che è successo con gli europei, quando abbiamo lasciato a casa il miglior cannoniere italiano, che era Belotti 93, per portare, con tutto rispetto, altri ragazzi, insomma, di cui uno non nemmeno totalmente italiano. Ecco, se si vuole fare questo di comunque protezionismo, visto che lo fanno anche altre nazioni, io credo che Berardi nazionale ci ribastare, sì, ma magari ci penserà, c'è qualche problemino col collegamento con Paolo Ghisoni, magari ci penseremo da ottobre. Si può anche capire che Ventura abbia qualche emergenza oggi. Ci fermiamo qui, torniamo domani dopo il GR delle 14. Ciao a tutti.